Restiamo nel regno animale e in un certo senso sul problema dei primati. Restiamoci con una citazione dal Manifesto Quotidiano Comunista, martedì 20 gennaio 2004, pagina 13. Vi si legge, aperte le virgolette, a 104 anni la pappagalla Charlie, amata da Winston Churchill, non smette di urlare fuck Nazi, fuck Hitler, vuol dire più o meno vaffanculo a Hitler e ai nazisti. Churchill comprò Charlie nel 1937. È un ara Macau, giallo e azzurro, considerato oggi il più vecchio pappagallo del Regno Unito. Peter Oram l'ha comprato alla morte di Churchill nel 1965 per tenerlo nel suo negozio d'animali. Ma è bastato poco per accorgersi che non era al posto adatto. Charlie bestemmiava e imprecava come il peggiore dei filibustieri. Oram l'ha dunque portato a casa sua, dove il pennuto continua a insultare i nazisti. Chiuse le virgolette. E chiuso anche l'articolo, e non c'è altro. Beh, è una noticina che dal punto di vista della tecnica giornalistica, anche a prescindere dalla noculuta al secondo capoverso, lascia piuttosto a desiderare. Non si capisce, per esempio, dove stia la notizia. La storia di Charlie risale appunto al 1965, quando è stata allontanata dal negozio di Peter Oram, che Dio solo sa chi sia. Ha circolato a lungo su giornali e riviste, è stato oggetto di barzellette e aneddoti, e non è chiaro per quale motivo dovrebbe tornare oggi all'onore delle cronache. Sì, la pennuta è invecchiata, ma succede un po' a tutti, non le è capitato niente di speciale, sembra in ottima forma, di fatto continua a bestemmiare, a imprecare e a mandare Hitler a fanculo con lo stesso zelo di 39 anni fa. Pure la sua storia, questa strana storia, ha interessato il sistema informativo italiano. Oltre al Manifesto, è piaciuta a un numero spropositato di organi di informazione. Gli ascoltatori mattinieri, per esempio, ricorderanno di averne sentito riferire alla rassegna stampa di Radio Popolare. Io, per mio conto, l'ho trovata in prima pagina, taglio basso, sul QN, il supplemento nazionale comune al giorno alla nazione e al resto del Carlino. E ho preso dal Manifesto il giorno dopo che era stata trattata con ampiezza dal TG2 e dal TG5 di metà mattina, con qualche incertezza su chi avesse insegnato la bestiola a parlare, se il celebre leader conservatore, se suo padre o altri. Sembra che il TG2 abbia anche riferito di una secca smentita in proposito della figlia dello statista, che è un particolare che avrebbe dovuto consigliare in materia un dignitoso silenzio a tutti. Ma che volete, i giornalisti in Italia sono fatti così. Sono disposti in troppi a sfumare le notizie che contano davvero, specialmente quando possono infastidire qualcuno, ma morirebbero pur di non lasciarsi sfuggire un aneddoto pittoresco. Parte della responsabilità, sì, certo, andrà anche all'agenzia, presumibilmente inglese, che ha passato la non notizia, ma non so in quanti paesi essa sia stata recepita con altrettanto entusiasmo che nel nostro. D'altronde c'è pittoresco e pittoresco. La figura del pappagallo indiscreto, quello capace appunto di mettere in crisi con le sue inopinate uscite verbali, pretese e progetti di chi lo circonda, è talmente nota e talmente sfruttata da costituire un topos ideologico metropolitano. La si trova, dicevamo prima, nelle barzellette. È familiare ai lettori dei fumetti di Paperino, in cui di solito un pappagallo ha il compito di ricordare la combinazione della cassaforte a un paperone dimentico o di riferirla indifferentemente ai bassotti. E compare spesso in contingenze analoghe sulla stampa popolare. Il concetto, se ci pensate, il concetto più o meno è quello per cui un animale innocente non può preoccuparsi delle nostre menate e delle ipocrisie relative, che non gliene frega niente dell'attaccamento al denaro, dei tabù linguistici o delle pretese di rispettabilità delle grandi famiglie britanniche. Tutto sommato, visto che l'idea dell'innocenza dell'animale è strettamente legata alla vecchia nozione di stato di natura, si tratta soltanto di uno degli innocui residui di sapienza cinica che circolano un po' incongruamente nella nostra cultura. Però, da un punto di vista strettamente linguistico, è parecchio improbabile che i pappagalli, come i merli indiani, le gracule religiose e gli altri uccelli che ne hanno fama, sappiano parlare davvero, almeno la nostra lingua. In caso contrario, non mancherebbero di comunicarci che cosa pensano della nostra abitudine di tenerli in gabbia o incatenati a un trespolo. È solo per ingannare la noia della prigionia, immagino, che si sforzano, nonostante la differenza dei rispettivi organi fonatori, di ripetere qualche parola tra le tante che del nostro chiacchiericcio quotidiano giungono loro. Non ci sembrerebbe nulla di preoccupante, in definitiva. Eppure lo si vede anche dalla diffusione delle notizie su Charlie, c'è qualcosa nel fenomeno che ci preoccupa. È come se la nostra cultura, che si è sempre compiaciuta di rispecchiarsi dai tempi di Esopo a quelli del dottor Doolittle nei nostri non abbastanza muti compagni animali, abbia sotto sotto una grande paura di esserne sbugiardata, che sappia di avere, in termini di valori, una coda di paglia lunga così. Naturalmente sul piano individuale la morale è molto più semplice. È ovvio che per tenersi accanto a un pappagallo parlante bisogna essere affatto immuni dal rischio di rivelazioni imbarazzanti, o almeno che bisogna essere indifferenti al giudizio morale altrui, come il celebre Long John Silver, che infatti il loquace pennuto, se vi ricordate l'Isola del Tesoro, se lo portava addirittura in spalla. Può giovare anche essere di animo intrepido, come il vecchio Winnie, come Churchill, che a fanculo Hitler era capace di mandarcelo davvero, e in un certo senso davvero ce lo mandò. Di politici di tal fatta purtroppo si è perso lo stampo, oggi ci si preoccupa dell'immagine, e ve lo vedete un Berlusconi che corre il rischio che un volatile qualsiasi si lasci sfuggire qualcosa sui suoi discorsi privati? Difficile. Molto difficile. Anche se di pappagalli l'uomo del lifting è letteralmente circondato, si tratta di pappagalli umani che parlano soltanto quando glielo ordina lui.